Elisir, pillole per curare le emozioni. L'appuntamento con te stesso, a cura di Federica Zani. Buongiorno a tutti, benvenuti alla prima puntata di Elisir, pillole per curare le emozioni. Io sono Federica Zani, terapeuta olistica e coach emozionale, esperta in conflitti, e sono molto felice di poter accompagnarvi in questo viaggio misterioso alla scoperta di noi stessi. Starò con voi tutte le settimane, il sabato mattina alle 10.30 su Radio Italiana. Se vuoi conoscermi meglio, entra nel mio blog www.latablesmeralda.com e scopri la mia storia. Oggi vi voglio parlare delle due cause fondamentali che sono all'origine dei conflitti nelle nostre relazioni e con noi stessi. Conoscere queste due cause è la base per iniziare il nostro viaggio interiore. Ma prima vi lascio con una bella canzone per darvi il tempo di mettervi comodi, rilassarvi ed immergervi in questo spazio di autoconoscenza. Come una fotografia dai contorni incerti è questa vita, la mia. La trovo in un cassetto e poi ogni giorno dentro gli occhi tuoi, se vuoi, parla. La fortuna aspetta e tienimi tra le tue braccia ancora per un po'. Dimmi che tu ci sarai quando il tempo su di noi avrà ormai lasciato segni che non vuoi. Dimmi che tu ci sarai quando la estirà i ricordi della vita mia. Toglierò la polvere, laverò le lacrime che tu non vuoi. Ogni goccia è una poesia che non ho sentito andare via. Se puoi spiegami le cose che non ho capito e svegliami se senti freddo. Vedi, sono qua. Dimmi che tu ci sarai quando il tempo su di noi avrà ormai lasciato segni che non vuoi. Dimmi che tu ci sarai quando la malinconia estirà i ricordi. Benvenuti di nuovo a tutti, oggi iniziamo la nostra prima puntata di Elisir parlando del conflitto tra l'io ideale e l'io reale e di come la mente condiziona le nostre emozioni. Tutti abbiamo un io ideale che rappresenta quello che dovremmo essere per sentirci accettati nella società e dalla nostra famiglia, che entra in conflitto con il nostro io reale, legato a ciò che veramente siamo in essenza, quella parte più pura e libera di noi che ci fa sentire realizzati con noi stessi, ma molto spesso non accettati dalla società o dalle nostre persone più care. Sapere di avere queste due parti della nostra personalità che si scontrano tra di loro è il primo passo di presa di coscienza per poter curare le emozioni. Lo sforzo costante che facciamo per essere quello che non siamo, per diventare quello che ci hanno insegnato che dovremmo essere, genera frustrazione, bassa autostima, dubbi, paure, rabbie. quando ci rendiamo conto che essere quello che non siamo veramente, per far contenti gli altri, è un ideale impossibile da raggiungere e molto frustrante. La vera sfida è imparare a essere noi stessi e amarci per quello che siamo, liberandoci dell'aspettativa di quello che gli altri vorrebbero che fossimo. Non tutti sanno che l'essere umano è formato da corpo, mente, anima e spirito, che sono una unica unità indivisibile. Per questo motivo il conflitto interno, nascosto, quindi inconscio, rappresenta il conflitto tra la mente e l'anima, che si manifesta con l'ideale, quello che dovremmo essere per sentirci accettati nella società, che si scontra con l'irreale, quello che siamo per sentirci accettati e amati da noi stessi. L'ideale è condizionato, fin da quando siamo bambini, dalla nostra educazione, famiglia, amici, società, scuola, paese dove siamo nati. Infatti, persone di differenti culture hanno usanze diverse, quindi è normale che vediamo le cose in maniera diversa. Il famoso punto di vista, che è quello che ci fa litigare, discutere, urlare, andare fuori di testa. Il punto di vista, infatti, non è altro che un giudizio che diamo rispetto a una situazione o a una persona. Vi siete mai chiesti il perché è così difficile accettare le persone che vedono le cose in una maniera diversa da noi? Mettiamo distanza, le allontaniamo, praticamente molte volte senza accorgerci le rifiutiamo, partendo dai gusti musicali, al cibo, al calcio, eccetera, eccetera. Ci alleiamo con chi ha i nostri gusti e ci allontaniamo da chi vede e crede cose diverse da noi. Ma c'è un altro fattore fondamentale che dovete assolutamente conoscere e che condiziona il nostro punto di vista. Ma prima di parlarne, ascoltiamoci una bella canzone. Ci sentiamo tra poco, vi aspetto qua a Elisir. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Bentornati a Elisir. Per chi si è messo in ascolto solo ora, io sono Federica Zani e oggi stiamo parlando della principale causa dei nostri conflitti. La risposta a tutto questo sta nella mente umana, che ha una caratteristica fondamentale: emette giudizi costantemente. Osserviamo una persona, una situazione e automaticamente nasce un pensiero: bello, brutto, mi piace, non mi piace, giusto o sbagliato. La mente non può evitare di emettere giudizi. È proprio una parte specifica della nostra mente che osserva e emette il giudizio. La famosa mente conscia, come si definisce in psicologia, che è la responsabile della ragione del pensiero logico. Quella che utilizziamo per acquisire conoscenza, per sapere come fare le cose, la nostra parte logica e razionale. Quindi il punto di vista non è altro che un giudizio emesso dalla mente conscia, che ha una caratteristica fondamentale: è condizionata dai nostri cinque sensi, vista, udito, tatto, gusto e olfatto. Vi spiego meglio. Immaginate che nella mente di ogni persona esista un filtro invisibile che ha il compito di valutare le informazioni che entrano e farle uscire dandole un significato. I cinque sensi sono i responsabili di decidere se l'informazione che riceviamo ci piace o no. Quel piccolo giudizio, un semplice sì o no che scatta automaticamente e in maniera velocissima nel nostro cervello, ha il potere di creare le emozioni e determina l'esperienza successiva che andremo a vivere. Ve lo spiego facilmente con un esempio. Immaginate che siamo in un supermercato e vediamo sullo scaffale una torta di cioccolato. Si attiva il senso della vista, manda un'informazione al cervello che si fissa su quel prodotto. Il cervello emette il giudizio, mi piace, non mi piace. Se ci piace, la compriamo e quando la mangiamo avremo un'esperienza positiva che provocherà un sentimento piacevole, come la felicità. Se invece associamo la torta di cioccolato a ingrassare, per esempio, se la vediamo non la compriamo. Un giorno siamo invitati a cena e come dolce c'è proprio la nostra bella torta di cioccolato. Noi vorremmo dire di no perché abbiamo deciso che la torta è ingrassa, però non possiamo farlo perché non starebbe bene, saremmo maleducati. Quindi la mangiamo per accontentare gli altri e il nostro io ideale e facciamo soffrire il nostro io reale. Questo crea emozioni negative, come il senso di colpa. Questo banale esempio serve per farci capire come funzioniamo in modo automatico. Crediamo di poter scegliere, quando in realtà la nostra scelta è condizionata. La mente condizionata emette un giudizio che crea un'emozione che genera la realtà che determina l'esperienza che andremo a vivere. Per questo si dice che la realtà è soggettiva, quindi parziale, perché chi la dichiara è condizionato dalle sue credenze e emozioni che ci fanno vedere solo una parte della realtà complessiva. Ma non è finita qui. Sapete il perché in mezzo a uno scaffale pieno di torte la nostra vista si è fissata proprio su quella torta al cioccolato? Perché quella torta ci riporta un ricordo piacevole del passato. Per esempio nostra mamma che ci faceva la torta ogni volta che prendevamo dei bei voti a scuola. Associamo la torta al piacere, ne siamo attratti e la compriamo. Questo può essere conscio o inconscio, però così funziona la nostra mente. Non ti sembra questo molto, ma molto interessante? Ci sentiamo dopo questa canzone per le conclusioni finali di questa puntata di Elisir e per anticiparvi il tema della prossima settimana. Vi aspetto! Elisir, io sono Federica Zani. Oggi abbiamo parlato del gran conflitto che sta alla base di tutto, la lotta tra l'io ideale e l'io reale e come la mente conscia giudica e percepisce la realtà. Ricordati che puoi ascoltare le nostre pillole per curare le emozioni nella web www.italianamaiorca.com, dove troverai il podcast di questa settimana. Scrivetemi le vostre domande, dubbi, idee nel mio blog www.latavlesmeralda.com nella sezione di Elisir e vi risponderò. La prossima settimana seguiremo il nostro viaggio, questa volta nella mente inconscia, dove si nascondono le nostre paure e i nostri traumi non risolti. Ma prima di salutarci, vi lascio con la frase che ho scelto per voi come spunto di riflessione. Il famoso dilemma dell'Amleto di Shakespeare, essere o non essere. Amleto si interrogava se era giusto vivere soffrendo o ribellarsi rischiando di morire. Io interpreto questo dilemma come il conflitto tra l'io reale e l'io ideale. E voi avete già deciso se essere o non essere? Se come me avete scelto il cammino dell'io reale e volete scoprire come integrare queste due polarità perché non entrino in conflitto tra loro e si uniscano per essere vostre alleate invece che vostre nemiche, seguitemi qua su Italiana e sulle reti sociali, Instagram, Facebook, YouTube. Io sono la Tavola Smeralda. Ricordati che puoi ascoltare questo podcast per tutta la settimana su www.italianamaiorca.com. Un abbraccio a tutti, felice fine settimana, ci ritroviamo il prossimo sabato alle 10.30 qua su Italiana, la tua radio sull'isola, con le nostre pillole per curare le emozioni. Un bacio! Elisir, pillole per curare le emozioni. L'appuntamento con te stesso, a cura di Federica Zani.